Ottimo avventurieri! Per spostare il masso davanti a voi servirebbe una forza di ben 9.000 newton. Fortunatamente, nei paraggi trovate una leva che, se usata correttamente, vi permetterà di dimezzare lo sforzo necessario. Quindi riflettete bene. Quanta forza dovrete applicare con l'aiuto della leva per riuscire a spostare il masso?